Benvenuti a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Un salotto convivio tra musicisti addetti ai lavori e non solo, rivolto a soddisfare le curiosità che girano intorno al mondo della musica, come comunemente la conosciamo. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a co-condurre il nostro viaggio una graditissima e già nota voce di Radio Fujiko, Francesca Clementoni. Benvenuta a Suoni Paralleli, Francesca, ancora una volta. Ci siamo. Eccomi qua. Come ci stai? Sono. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Seguendo musicalmente il ritornello introduttivo di presentazione della nostra trasmissione. Bene, mi fa veramente piacere. Poi pian piano avremo anche modo di presentarla, la nostra sigla. Diremo chi sono gli autori, oltre che i coordinatori tecnici, no, della nostra trasmissione. Un programma, dicevamo, che parla dei nuovi generi musicali e di come si miscelano con i vecchi sound, e che parla anche dei processi creativi, oltre ai processi tecnici, diciamo, che portano alla realizzazione anche pratica dei CD musicali e all'esistenza stessa del mondo della musica. Quindi abbiamo toccato vari argomenti, vero Franci? Sì, abbiamo toccato vari argomenti, ovviamente aiutati da degli ospiti, perché la caratteristica di questa trasmissione è avere uno o due ospiti almeno. Perché questi ospiti ovviamente non sono solo musicisti, ma tutti coloro che lavorano nella filiera che porta poi come finale a un concerto, alla realizzazione, per esempio, della o musica. Alla realizzazione musicale. Bene, bene, infatti davvero sono stati tanti gli ospiti che abbiamo avuto con noi, vari punti di vista, vari modi di vedere il mondo della musica e di approcciare, dal mondo del jazz al mondo dell'elettronica, al mondo della produzione in senso anche a più ampio possibile, al mondo dell'organizzazione degli eventi. Avremo modo poi nelle prossime puntate di parlare ancora e ancora con tantissimi dei settori che fanno parte un po' e realizzano tutti gli aspetti del mondo della musica. Intanto volevo introdurre l'ospite di oggi, che non vi presento subito, introduco prima il concetto. Questa puntata la dedicheremo a quella che è il panorama della musica indipendente italiana, un po' quella che viene volgarmente detta indie music. Andremo un po' ad approfondire quali sono i retroscena che stanno dietro l'uscita di dischi e di sold out particolarmente fortunati. Faremo un viaggio, insomma, in quello che negli ultimi anni l'Italia underground sta portando a conoscenza dell'ascoltatore, ultimamente anche un po' in una fascia mainstream, cosa che, diciamo, fino a qualche tempo fa non funzionava. Mainstream non solo, dall'altra parte c'è tutta una situazione invece che riguarda i locali, che riguarda la gestione dei live cittadini. Andremo a parlare con il nostro ospite che vi presento, dai, adesso ve lo presento, Giovanni Gigantino, La Fabbrica, ecco. Buonasera, benvenuto a Giovanni. Tutti gli ascoltatori, buonasera. Benvenuto a Suoni Paralleli, Giovanni. Sappiamo che in questo momento, diciamo, di live in Italia particolarmente importante, la musica sta reagendo in maniera diversa, dalle città ad altre situazioni. Insomma, sappiamo che il live, la musica live, l'organizzazione degli eventi, ma non solo, anche la produzione delle nuove band, la ricerca, lo scouting, diciamo, dei nuovi artisti, sta diventando uno dei concept, diciamo, della nuova musica che arriverà. Eccola là, il concept è arrivato. Il termine concept lo sai che è fondamentale a Suoni Paralleli, è un'esigenza. Mi piace concept. Facciamo così, andiamo ad ascoltare, a proposito del nostro argomento, uno di quelli che i cantautori che in questo momento stanno riscuotendo più gradimento dal punto di vista, diciamo, del pubblico, e uno di quelli che sta passando molto anche dalla parte underground, quindi dall'indie al mainstream. Facciamo ascoltare un brano di un artista appena passato anche lui da Bologna a trovarci, e di cui abbiamo ascoltato in diversi modi, insomma, sia produzioni che concerti, perché è un po' che gira. Il suo nome è Bruno Risas, questo brano è La Verità, tratto dal suo ultimo disco. Lo andiamo ad ascoltare, poi apriamo Suoni Paralleli ufficialmente. Ancora benvenuti. Te ne sei accorto, sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Ma l'hai capito che non ti serve a niente sembrare intelligente agli occhi della gente, che morire serve anche a rinascere. E ancora bentrovati e benvenuti a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a condurre, a co-condurre Suoni Paralleli, una graditissima ospite, Francesca Clementoni, più che ospite ormai conduttrice fissa e super resident come conduttrice. Ah, ecco, Franci? Mi pareva, infatti mi suonava strano che mi presentassi come ospite. No, ma ci mancherebbe, scusami, era un eccesso di cortesia da parte mia. Sei un tesoro. Franci, rientriamo, sei un bel padrone di casa. Rientriamo da questo bell'ascolto su Bruno Risas, La Verità, abbiamo appena ascoltato. Che ne pensi? Ho notato che ti piaceva molto. Sì, mi piace molto. Si diceva anche fuori onda che è difficile per un cantante, una band, un musicista partire da zero con una propria personalità e quindi comunque c'è molta influenza di ciò che è stato l'ascolto nel crescere, diciamo. Certo. Però credo che pian pianino stia cominciando a cucirsi addosso il suo vestito, ecco, chissà. Sì, direi che in questo momento ha trovato una sua dimensione reale che potremmo sicuramente andare ad apprezzare anche nei prossimi anni. Secondo me finalmente il percorso è partito e finalmente abbiamo visto anche dei sold out. Infatti la cosa che mi ha dato un po' lo spunto per parlare un po' anche di Brunori è questi sold out che sta disseminando in Italia, non solo lui ma anche altri artisti che fanno parte dell'underground e dell'indie italiano. Quindi questo vuol dire, tra l'altro, nella puntata scorsa, esatto, che c'è questa controtendenza dell'indie verso a fare dei sold out, a differenza invece di grandi nomi che invece fanno fatica in questo momento a riempire alcuni spazi. Era proprio uno degli argomenti di cui volevo parlare anche col nostro ospite in studio, Giovanni Gigantino della Fabbrica. Ciao a tutti. Benvenuto ancora, ciao. Giovanni, a Suoni Paralleli. E uno degli argomenti, mi fa piacere che ci sia proprio tu con noi, che da tanto tempo insomma ti sei occupato sia dell'organizzazione degli eventi che dell'edizione vera e propria e della produzione a livello musicale delle band, quindi accompagnando l'artista in qualche maniera dalla A alla Z del suo percorso artistico. E mi fa piacere che ci sia tu, dicevo, proprio perché avremo modo di parlare nello stretto di come si porta avanti un progetto musicale in qualche maniera e di cosa ne pensa un operatore del settore di quello che sta succedendo in questo momento come ritorno dell'indie, questa direzione dell'indie, diciamo in direzione mainstream dell'indie, no? Che ne pensi in questo momento? Come la leggi questa situazione? Direi che sicuramente ci fa molto piacere perché c'è un'attenzione crescente per quanto riguarda il progetto cosiddetto indie, in particolare Brunori. Noi lo abbiamo avuto ospite a Salotto Musica circa 7-8 anni fa e in varie edizioni. E vediamo che c'è un'attenzione sempre maggiore a quello che sono i nuovi progetti indie. Partiamo da Brunori, poi ci sono i vari dei giornalisti, Dente, lo Stato Sociale di Bologna, Sociale di Bologna, e direi che è molto ma molto interessante e apre tutto un mondo anche per tante realtà che noi curiamo in particolare, che sono un po' più piccole ma che adesso soprattutto radiofonicamente parlando stanno avendo sempre un'attenzione crescente. Tu pensi che il mondo dell'indie sia pronto al mainstream? Ma una parte dell'indie, perché c'è tutta una cosiddetta cantera che è lì, che scalcia e che vive ancora di tanti live fatti davanti a un pubblico minimo. Secondo me bisogna lavorare molto anche su tutta un underground che ha bisogno di essere rivitalizzato. Va bene questi indie che fanno sold out, però bisogna porre l'attenzione anche su tanti gruppi medio-piccoli che hanno tanto da dire sul panorama musicale nazionale. Certo, poi abbiamo visto spesso e volentieri come il mainstream e l'indie si sono mischiati un po' a vicenda negli ultimi tempi. Ci abbiamo visto artisti che venivano dal panorama indie. L'ultima volta avevamo parlato di Clementino Franci, no? Ti ricordi? Esatto. Che anche lui, diciamo, da un underground purissimo nel rap italiano è diventato un artista mainstream, meritatamente. Stessa cosa, insomma, è successo a diversi artisti. Abbiamo notato, tra l'altro, che però anche dall'altra parte c'è un, in senso opposto, vale a dire, c'è un ritorno, vale a dire anche dai grandi nomi che fanno mainstream ogni tanto si stacca qualche pezzo che invece, ad esempio, un musicista o un autore che poi si dedica ad un progetto ad esempio più personalizzato e si dedica a portare avanti questo tipo di progetto nel panorama indie, perché questo canale, diciamo così, di contatto viene scelto come più adeguato a soddisfare un tipo di espressione degli artisti. Mi confermi questa... Sì. Sensazione? Sì. Noi per esempio ultimamente, nell'ultimo anno, abbiamo fatto un lavoro del genere su Ciccarelli, sì, ex chitarrista degli After Hours che si è rimesso in gioco con un nuovo album ed è in giro da un annetto andando a recuperare tutte delle location che prima non erano proprio affine a quello che era il progetto After Hours. Si è ritornati a visitare quelle che sono le cosiddette cantine musicali e con un contatto più diretto con il pubblico, e ci sta dando delle gran belle soddisfazioni. Abbiamo fatto in un anno oltre 80 date. Bene, direi che è un ottimo risultato. Io direi, Giovanni, di partire subito, di farlo ascoltare questo brano estratto da questo nuovo disco di Giorgio Ciccarelli, edito dalla Fabbrica, e andiamo ad ascoltare Venga il mio regno. Questo è Radio Città Fujiko 103.1 FM, questa è Suoni Paralleli. Quello che voglio da te non ha bisogno un perché, vattene via, via da una vita che è mia, quello che voglio da me e non concedermi un sé, vattene via, via da una vita che è mia. Yeah. questo era Giorgio Ciccarelli, Venga il mio regno, edito dalla Fabbrica, l'ultimo disco dell'ex chitarrista degli After Hours, uscito dalla band per questo nuovo progetto che, dicevamo, Franci sta proponendo la sua espressione, insomma la sua arte, in un canale un po' diciamo obsoleto per lui, che era arrivato come artista anche partendo dall'India ad un canale un po' più mainstream. Ha fatto un passo, relativamente una scelta vera e propria, ed è la scelta che stanno facendo, diciamo, tanti artisti, e che sta dando ragione, in realtà, parlavamo proprio di questo, all'indie music, che come momento storico sta vivendo una sorta di epoca d'oro, andando a non solo produrre dei belli artisti fatti in casa italiani, quindi dei bei cantautori che tornano sulle scene italiane, si ricomincia in Italia a scrivere canzoni di un certo livello, ma in qualche maniera... non solo per quello che riguarda, diciamo, la produzione di nuovi cantautori, ma anche alla nuova ricerca di nuove sonorità che il canale indie permette di esplorare con più facilità rispetto al mainstream. Volevo chiederti, sì. Anzi volevo chiedere al nostro ospite, ma secondo te, che hai un po' il polso della situazione, è più una moda, parlo dalla parte del pubblico, seguire l'indie, un po' come dice la canzone degli Stato Sociale, come sono indie, oppure invece c'è proprio un'abitudine e un piacere all'ascolto di certi progetti? C'è sicuramente una componente importante che segue la moda, segue i filoni del nostro tempo. C'è però anche tanta curiosità, noi lo vediamo anche con la rassegna che facciamo qui sul territorio, dove, di cui adesso parleremo, adesso sì, andremo dove, a dare un po' gli appuntamenti. Oltre agli avventori che seguono il concerto in particolare, c'è anche tanta curiosità. E quindi sono abbastanza fiducioso, perché vedo un pubblico giovane, attento, e che si affaccia a quello che non sono strettamente i filoni televisivi di moda o quant'altro, ma segue i concerti dal vivo, e questo mi fa ben sperare anche per tante piccole e medie realtà che si affacciano sul panorama nazionale. Quindi secondo te c'è un ritorno al gusto dell'ascolto, della ricerca? Sì, quello che è importante, oltre soprattutto ai canali radiofonici che sono fondamentali, è soprattutto stimolare la curiosità e l'offerta che viene fatta sul territorio, ovvero seguire, noi quello che forziamo con la nostra rassegna La Fabbrica Live è dare tanto spazio a band nuove e canalizzarle in diverse location, dare quanta più offerta possibile sul panorama musicale. Certo, ma è assolutamente giusto poi fare questo discorso anche per far crescere il pubblico e dare la possibilità di andare incontro anche a quelle che sono le esigenze di ricerca dell'ascoltatore, che spesso in Italia vengono un po' messe in secondo piano, c'è da dire questa cosa. Invece, grazie all'opera di alcuni addetti ai lavori, si può ancora avere un minimo di speranza al riguardo, insomma, ad una crescita. A proposito, lui diceva i passaggi radiofonici, il rischio in un certo periodo di tempo è stato l'assopimento del desiderio di ricerca, perché poi a forza di sentire sempre le stesse quattro canzoni uno poi si impigrisce anche ad andare a cercare. Noi abbiamo anche un approccio molto più artigianale, nel senso, al di là dei social, dei canali radiofonici, siamo molto presenti sul territorio e cerchiamo di canalizzare nuova musica attraverso quelle che possono essere tutte le offerte che da questo territorio bolognese, quindi location nuove, gruppi, cioè andiamo proprio alla ricerca di gruppi e sonorità nuove da presentare sul territorio bolognese, che vanno al di là di quelle che possono essere le mode social o le mode radiofoniche. Certo. C'è tutta un'attività di ricerca e di sviluppo sul territorio, che tra l'altro va avanti anche da diversi anni, per quello che riguarda la fabbrica. Giovanni, avete organizzato veramente diverse rassegne, diversi club, no? E proprio per questo immagino che tu abbia accumulato una conoscenza proprio del circuito, non solo bolognese in realtà, anche italiano, perché il vostro booking, insomma, si occupa di tutto il territorio nazionale, sappiamo. E volevo chiederti: qual è secondo te un po' lo stato di salute del circuito live italiano e anche bolognese? L'ho chiesto anche ad altri operatori, ad esempio in una puntata abbiamo avuto ospite Piero Ricci, che si occupa di diverse realtà di produzione, sia di quelle un pochettino più famose, ad esempio facendo il tour manager in questo periodo, ad esempio con Branduardi, sia di altre produzioni che sono chiaramente un po' più piccoline rispetto al mainstream di Branduardi. E lui diceva che in Italia, come in Europa, le tendenze sono diverse, e spesso sono un pochettino territorializzate. E mi chiedevo, anche tu hai riscontrato, per quello che riguarda la tua attività, lo stesso problema? Cioè, riusciamo in Italia ad essere abbastanza europeizzati in questo senso, oppure l'Italia fa ancora un po' testo a sé? Qual è lo stato di salute vero? Io sono da una parte molto fiducioso, perché vedo tutta la gente, che il pubblico che segue i nostri live, che è molto interessato e che ha voglia di conoscere nuovi gruppi, nuovi artisti. Dall'altro vedo un discorso un po' statico da parte di chi ha delle strutture, che molto spesso tende a non fare promozione, a non creare una continuità. L'importante è creare una continuità in una programmazione all'interno di un locale, perché il differenziale deve essere la qualità della musica che proponi, non portare una band che deve fare anche pierraggio. Diciamo che è difficile adesso trovare un po' il punto di equilibrio in questo senso, perché i proprietari dei locali hanno ovviamente delle scelte di tipo economico da fare, no? Materialmente, il motivo per cui non hanno questa propensione alla qualità spesso e volentieri non solo dipende da un discorso di impreparazione dei direttori dal mio punto di vista, spesso può dipendere anche da delle esigenze, no? Sì, questo è, ma basterebbe un giorno a settimana fare una programmazione coerente, proporre una certa tipologia musica, indie con una certa continuità, e creare uno zoccolo duro, che non stiamo parlando di tanto, ma di 40-50 persone, che ti permettono anche di portare delle band praticamente sconosciute, ma davanti a un pubblico nuovo. Il problema, soprattutto delle prime produzioni dei gruppi indie che sono al loro primo album, è che molto spesso si trovano a venire a suonare a Bologna e non hanno un pubblico base, non hanno una fan base di riferimento. Succede un po' in tutta Italia, no? Dove spesso i locali ti dicono, ti valutano anche te musicista in base al pubblico che riesci a portare. Spesso, no? Quante volte abbiamo sentito dire, o abbiamo letto anche sui post su Facebook, in cui c'è scritto dal musicista, il proprietario del locale X mi ha detto: ma quanta gente mi porti? La cosa tremenda è quando poi i proprietari guardano l'evento, ma ci sono pochi partecipanti. Ma non funziona così. Tu che sei sul territorio devi fare una promozione importante. Io per esempio la faccio a livello nazionale e seguo ogni artista con un comunicato sulle radio, un comunicato stampa, un'attenzione sul territorio che manca, e che è molto più semplice se la fa un proprietario, e che spesso, diciamo, sopperisce anche un po' alla mancanza del proprietario del locale, insomma, a livello della direzione artistica del locale nel 90% dei casi. E diciamo, questo impoverimento, mi viene in mente che una volta erano le situazioni no profit, associazionistiche, che facevano così: chiamavano magari il gruppo di Bologna, se erano di Bologna, perché si portava dietro 30-40 amici, e così le associazioni potevano fare autofinanziamento e avevano una sicurezza di un pubblico partecipante. Ma i locali, accidenti. Se ci pensi, in Italia ultimamente viviamo questo periodo in cui l'associazionismo fa futuro, non è? Che ne pensi? Sì, ho capito, ma c'è una bella differenza tra una piccola associazione che deve usare queste cose, diciamo, sono mezzucci, per usare in senso buono, per magari fare autofinanziamento, per sostenersi, piuttosto che un locale. Sono d'accordissimo, infatti le situazioni sono incredibilmente diverse. Spesso i proprietari dei locali hanno questi problemi, però diciamo che la verità è anche spesso che c'è un impoverimento dal punto di vista della preparazione culturale negli addetti ai lavori. Può anche succedere, oltre a alcune scelte consapevoli che toccano un po' la tasca, parliamoci. Però il rischio è che si crei un divario incredibile fra band che ti riescono a fare i cosiddetti sold out, come parlavamo prima di Brunori, e chi si affaccia per la prima volta in questo nuovo universo musicale. Bisogna, dal mio punto di vista, dare anche un minimo di ricettività a tutte queste band giovani che cercano di portare i loro progetti e che macinano chilometri per suonare davanti a un minimo di pubblico e portare il loro progetto. Tu dici che questa situazione per cui i vari sold out degli indipendenti italiani stanno diventando abbastanza clamorose rispetto invece ai buchi, alle serate andate male dei VIP, aprirà gli occhi al mercato discografico italiano? italiano o pensi che ancora il mercato discografico non è pronto per recepire messaggi così forti dei denti? No, sicuramente c'è un'attenzione importante. Stanno capendo? Sì. È esploso tutto ciò che prima era un underground che ribolliva, che aveva bisogno di emergere. E spero che sia da traino per tutte quelle nuove realtà che hanno voglia e hanno tutto il diritto di potersi esprimere davanti ad un pubblico. Non è un caso, aggiungo io, che alcune major stanno facendo firmare alcuni ex indie o comunque stanno inglobando Sono le tanti. Etichette indie. Perché hanno visto che una volta l'indie rimaneva indie per tutta la vita, non è che... Bene, allora prima di tornare poi ad ascoltare tutti gli indipendenti italiani che continueremo ad ascoltare nell'arco della nostra puntata, io volevo far ascoltare un'altra produzione di quelle secondo me davvero fortunate, che comunque oltre alla fortuna ha un certo elemento di qualità, ed è anche un artista che io ho avuto modo di rivalutare, che prima insomma non mi entusiasmava, invece che con quest'ultima produzione anche lui come Bruno Risas mi è sembrato assumere una maturità dal punto di vista artistico. Lui è Dente, anche lui diciamo che sta collezionando un buon numero di sold out e delle soddisfazioni che poi ci fa davvero davvero piacere che questi artisti abbiano anche la consapevolezza di condividere un po' con tutto il mondo dell'indie, perché sono davvero bravi, hanno questa coscienza che li porta in alcuni casi a farlo. E questo è Dente, il brano che andiamo ad ascoltare è Cosa devo fare. Specchio dei desideri, dimmi cosa devo fare. Se mi devo alzare posso riposare, se dei miei amici mi posso fidare. Tu che non mi puoi vedere, ma che mi puoi sentire, specchio io ti prego dimmi cosa fare. Carta del cartomante, dimmi cosa devo fare, se devo andare avanti a camminare, se le cose che ho già fatto possono bastare. Io non ti posso toccare, ma tu mi puoi sentire. Carta, io ti prego, dimmi cosa fare. Palla di vetro bella, dimmi cosa devo fare. Come faccio se mi faccio male? Se sabato c'è il sole posso andare al mare. Puoi sentire, ma che mi puoi vedere, guardami negli occhi, cosa devo fare. E ancora ben trovati e benvenuti a Suoni Paralleli Secondo Break, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi in onda sulle frequenze di Radio Fujiko 103.1 FM, un salotto convivio tra musicisti addetti ai lavori e non solo, rivolto a soddisfare le curiosità che girano intorno al mondo della musica. Chi vi parla è Antonino Barresi, con me a co-condurre il nostro viaggio Francesca Clementoni. Ciao Franci, ti ho già ripresentato milioni di volte, come stai? Come sta andando questa quarta puntata di Suoni Paralleli? Sta andando benissimo, mi intriga, un sacco di domande per il nostro ospite. Abbiamo cambiato il nostro argomento, no? Rispetto alle prime puntate in cui abbiamo parlato un po' di jazz, un po' di produzione, un po' con alcuni producer, un po' con alcuni musicisti, adesso andiamo ad affrontare un po' un argomento che riguarda l'edizione, la produzione, la realizzazione degli eventi live, con il nostro ospite Giovanni Gigantino della Fabbrica. Ancora benvenuto a Suoni Paralleli, Giovanni, è davvero un piacere averti qui e fare due chiacchiere su quello che è il mondo degli indipendenti, che era un argomento che ci tenevamo molto a trattare all'interno del nostro Suoni Paralleli, perché rappresenta un po' uno dei canali che, insieme a quello della musica elettronica, a quello del mainstream commerciale, a quello dell'house o del clubbing in qualche maniera, rappresenta una sorta di fiume parallelo musicale che porta avanti sia il nostro panorama musicale italiano che, perché no, quello anche internazionale, perché poi di cantautori e di indie music ce n'è in tutto il mondo. Giovanni, abbiamo ascoltato diverse cose per quello che riguardava i cantautori, abbiamo parlato sia di Bruno Risas che di Dent che delle produzioni della Fabbrica e di quanto in questo momento lo stato di salute del live sia precario, non solo a Bologna ma anche, diciamo, in Italia, no? E sappiamo quindi che i live, facevamo il nostro applauso a tutto il mondo dell'indie che arriva al sold out, che quindi diventa un po' caso e emblema di questo momento di fertilità dell'indie, ma dall'altra parte sappiamo che invece le major stanno facendo un po' fatica a fare questi sold out che invece prima era ovvio per loro fare. Secondo te perché in questo momento un artista che invece viene dal mainstream si ritrova in una condizione di, non so, di buco nell'acqua, come si può dire? Ce ne sono stati tanti, anche famosi, anche di ambienti ad esempio come il rap, non andiamo a citare gli artisti che hanno avuto dei problemi di flop, però ci sono stati. Secondo te quali sono i motivi per cui un artista mainstream va in flop a un certo punto? Ma secondo me c'è molto semplicemente un ricambio generazionale, c'è bisogno anche, tutto lo sviluppo dei social hanno portato un rapporto molto più diretto fra l'artista e quello che è il pubblico. Noi stesso quando abbiamo iniziato la rassegna Salotto Musica era proprio quello, aveva proprio come finalità quello di creare un contatto diretto fra l'artista e il pubblico. Infatti organizzavamo prima del live una mini intervista sul divano, in modo da rompere tante barriere che negli anni precedenti, soprattutto negli anni 90, si erano creati fra questi artisti tra virgolette irraggiungibili e un pubblico che era estraneo a tutto un mondo musicale. Adesso un po' con i social queste barriere si sono un po' più rotte e l'artista ha l'esigenza di parlare in maniera più diretta e più a stretto contatto con il pubblico. Mi viene da dire che questa può essere una delle cause. Ma questo secondo te non causa un livellamento verso il basso del livello artistico italiano? Semplicemente ad oggi funzionano quegli artisti che hanno un feeling diretto, un'empatia più stretta con il musica in questo momento, più che livello compositivo, quindi è qualità compositiva, può essere anche utilizzo corretto dei social in questo momento. Cioè stiamo uscendo dalla fase compositiva, secondo te stiamo entrando nell'ambito social della musica? No, assolutamente no, la fase compositiva è il punto vitale di qualsiasi progetto artistico, però c'è una maggiore attenzione a quello che sono anche le esigenze del pubblico al quale ti rivolgi. Tipo, ti viene in mente posso un aggiungere gruppo... una cosa? Certo. Tu prima dicevi il flop di alcuni grossi artisti, mi viene in mente nel rap. Sì, per non lo dire. Non voglio fare nomi, voglio fare un esempio musicale. Secondo me il problema è anche che nel passaggio al mainstream, forse perché mal consigliati, forse perché presi dal, come dire, dall'ebbrezza, sì, della fama eccetera eccetera, però come compositività e come personalità musicale si perdono un po'. Eh certo. Perché se a me piace il rap, il bel rap, magari anche quello dei contest rap, e poi dopo il mio artista rap di riferimento si mette a fare quei repetini melodici con ritornello spagnoleggiante, sinceramente, certo, può avere un po' un calo del desiderio anche l'ascoltatore, il tuo fan, giustamente, sì, potrebbe anche darsi. No, è vero, fa curiosità. Ti viene in mente qualche gruppo, per esempio, che dal punto di vista della qualità, Franci, è molto alto di qualità, però per esempio non avendo curato bene la parte social, secondo te ha avuto dei problemi inizialmente, ma che poi comunque è riuscito ad arrivare da qualche parte? Facciamo un esempio di una band, secondo voi, che... Ma qui possiamo fare i nomi? Qualitativamente sì, la censura è finita. No, dai, diciamolo pure, Radio Fucico non censura mai, storicamente, diciamo, ha il DNA anticensura, però... No, era diciamo una questione che di delicatezza. Si parlava di flop per delicatezza, non è bello parlare direttamente delle persone in questo caso a cui facevamo riferimento, è bello parlare nell'ambito dei sold out, no? Degli artisti indie come abbiamo fatto prima e andare poi a trattare gli argomenti analizzandoli. Detto questo, torno alla domanda, la pongo anche a Giovanni Gigantino della Fabbrica, cioè Giovanni, secondo te, tu così a volo ti viene in mente una band che compositivamente è una bella band che suonano molto bene e che però non utilizzando i social bene hanno comunque avuto successo. Te ne viene in mente uno? A me i no. A me no. E infatti era questa la domanda che volevo fare prima. Cioè, in questo momento siamo nell'era della musica sociale o siamo nell'era della musica di qualità? Per me la risposta è abbastanza ovvia. Vero è che però c'è una reazione a questa situazione che porta, diciamo, al livellamento verso il basso della musica, perché, ripeto, prima i musicisti si preoccupavano di imparare a suonare uno strumento, adesso si preoccupano di imparare a suonare Facebook. È anche un po' il frutto dei tempi che viviamo, secondo me. Ma è più che altro un intrecciarsi, non è una preoccupazione, è un livellamento verso il basso. Secondo me vengono calibrate in maniera differente quelle che possono essere delle esigenze artistiche. Secondo me è la stessa cosa di quando non c'erano i social. Se un gruppo era musicalmente ottimo, preparato, con e poi non faceva i flyer, i volantini, non diceva a tutti che faceva il concerto lì, non ci andava nessuno. Adesso d'accordo. Usi i social, ma si parla semplicemente di modernità della comunicazione, il linguaggio è migliorato. Ecco, però se non vale niente, bene. Non vale niente. Anche la cosa che ci interessa. Anzi, delle due rende, cioè adesso con i social rende tutto un po' più accessibile. Anche una promozione digitale permette anche a band sconosciute di essere notate ed ascoltate su territori lontani. Sì, dove ti faccio un esempio all'inverso: un Rovazzi dura un altro brano, poi ha finito, perché una volta, la prima volta ti fa ridere, la seconda anche, la terza ti rompe. Speriamo, insomma, vediamo che cosa succede. In realtà Rovazzi è stato proprio uno dei fenomeni che più è stato analizzato e che secondo me nella parte, poi a prescindere dai gusti personali per quello che riguarda la musica, ha dato molti spunti per poter essere analizzata come tendenza. Quindi se da una parte ognuno può dire quello che è il suo gusto personale sul brano, dall'altra invece mi ha fatto piacere che si sia aperto un vero e proprio caso, no? In qualche modo, perché è stato un risultato eclatante, per cui va comunque i nostri complimenti vanno comunque delle due. Cercherei di capire come mai è arrivata a tanta, esatto, tanta gente. Era la domanda che mi ponevo quando ti chiedevo proprio il fatto che, ad esempio, ti facevo la domanda: il social in questo caso, la possibilità che dà il social di avvicinarsi alla musica con più facilità e al pubblico con più facilità, non causa allo stesso tempo un livellamento verso il basso della qualità musicale italiana, proprio perché i musicisti spesso non vengono più creati nelle aule di conservatorio studiando musica, ma vengono spesso creati un po' sui social, perché vengono seguiti un po' come le mode e le tendenze sui vestiti. Può essere una lettura, scusa, la mia è ovviamente una provocazione, perché poi se alla base puoi avere un seguito social molto importante, però se poi live non hai una tua impronta, non hai, lasci il tempo che trovi. Cioè, non hai una continuità, non riesci a creare una continuità, e quindi il social può essere uno strumento per far conoscere la tua musica, ma poi devi avere dei contenuti importanti. Bene, allora mi viene in mente che ha dei contenuti importanti e anche indie come modalità, però nasce dai social, è Levante, per esempio. Certo, sono d'accordissimo. Sì, diciamo che il mondo dei social e quello dell'indie, intrecciandosi, ha dato origine a diversi di queste realtà che possiamo poi andare ad ascoltare un po' facilmente sia su YouTube, sui vari canali Spotify e quant'altro, quindi sono anche molto più fruibili rispetto a prima. Ha ragione Giovanni Gigantino quando dice che in questo senso molte band emergenti al primo disco, molte realtà valide che avevano invece difficoltà a farsi notare tramite l'utilizzo dei social hanno avuto più mezzi a disposizione. Io direi, Giovanni, a proposito delle edizioni della Fabbrica, di cui volevo far ascoltare un po' al nostro pubblico un po' di produzioni della Fabbrica, volevo lanciare adesso una delle band che ultima è da poco entrata nella Fabbrica, una produzione al primo disco ufficiale da pochissimo uscito. Loro sono Beware, questa è Stronger. Thank you. Stronger. Interessanti questi Beware. Sarebbe bello sentirli live, però mi dicevi che c'è qualche problema. C'è un po' di difficoltà perché sono al primo album, come dicevo non hanno una loro fan base, quindi farli stiamo cercando di creare tutto un terreno per poterli portare quanto prima a Bologna all'interno della nostra rassegna. Certo, anche perché mi sembra giusto che in questo caso la fabbrica, ma in generale proprio tutte le case discografiche che si occupano di nuove produzioni abbiano un po' anche questa diciamo apprensione nei confronti degli artisti per portarli in un percorso, per farli andare avanti, accompagnarli e poi avere dei risultati un attimino più facilmente di quanto a fatica da soli non riescano a fare, no? Giovanni, io so che voi è da anni che ve ne occupate, so che su Bologna avete una vostra sorta di quartier generale e che questo vi ha portato poi ad elaborare delle vere e proprie rassegne musicali che sono state ospitate un po' in tutti i locali di Bologna. Abbiamo parlato prima, insomma, di qual era lo stato di salute del live nella nostra città, abbiamo parlato ampiamente, insomma, dei nostri punti di vista. Adesso non stiamo lì a ripetere le cose, ma volevo tuttavia ripetere quelli che sono gli appuntamenti per la prossima rassegna della fabbrica che è appena cominciata e che vi vedrà impegnati per tutta questa primavera. In particolare, a breve, proprio uno degli artisti che abbiamo ascoltato da poco, no? Il 7 aprile, sappiamo che Ciccarelli passa da Bologna, ad esempio, sì, vero? Sì. Abbiamo venerdì Giorgio Ciccarelli al Micasa in via Zago. Venerdì 7 aprile. Poi, ma prima ancora abbiamo sabato 1 aprile La Maschera all'Arteria, questa nuova band partenopea che sta riscuotendo un successo importante. Di uno dei concerti del palinsesto di stasera a Bologna, Enrico si amplia con una di queste produzioni degli eventi della rassegna della fabbrica, La Maschera all'Arteria. Avremo poi modo di averti ancora con noi, Gio, vero? Ci prometti volentieri che ci vieni a trovare molto anche, diciamo, dopo questa primavera, magari. Vediamo un po' che cosa la primavera propone alla parte dell'indie italiano, in questa casa La Fetta Fabbrica. E vienici a trovare più spesso, parleremo anche delle nuove produzioni, continueremo a portare avanti il nostro viaggio concept tra i generi musicali diversi. Franci, vogliamo, secondo me, chiudere questa nostra puntata con un'auto ultima domanda. Joe, vuoi chiedergli qualcosa? Avevi ancora qualche dubbio sull'indie? O no, come nel caso dei producer hai capito tutto sull'indie settore? Questa volta ho capito un po' di più. Ah, stavolta è? Sì. Devo dire che è stato molto chiaro il nostro ospite. Il nostro ospite ci ha ben accompagnato all'interno di questo mondo. Io spero tanto che questa cosa possa andare avanti con i migliori auspici e che anche i locali, gli spazi dove poter suonare crescano anziché continuare a diminuire, perché sennò è un problema. Noi lavoreremo per questo. È l'augurio che va fatto davvero proprio all'indie italiano in senso generale. Speriamo che davvero tutti gli spazi vengano gestiti con un occhio di riguardo a queste situazioni. E soprattutto che aumentino gli spazi, certo, perché qui si stanno anche riducendo, non solo, ne sono rimasti 4-5 e sì. Diciamo che anche la nostra città, che ha goduto di questi ambienti laboratori, di queste fucine laboratori per grandi artisti anche in passato, in questo momento, come tutto il resto dell'Italia, vive una fase di crisi. Chiaro che si spera da parte degli operatori che ci sia un approccio diverso, da parte dei musicisti un impegno maggiore, ma soprattutto anche da parte delle istituzioni, perché no? Creiamo un po' il nostro appello da Suoni Paralleli alle nostre istituzioni: venite incontro, creiamo questi nuovi spazi e soprattutto facciamoli utilizzare a chi ha voglia di produrre nuova arte, nuove forme di espressione, in questo caso non solo musicale ma artistica a 360 gradi. Questo è il nostro concept che ancora Suoni Paralleli porteremo avanti, di cui ancora continueremo a parlare anche nelle prossime puntate. Il nostro sabato per ora intanto volge al termine, questi Suoni Paralleli, quarta puntata. Franci, come sono andati? Tutto bene, l'indie si è avvicinato a noi, continueremo a riparlarne ormai tra indie, elettronica, jazz, questi suoni paralleli che, diciamo, stanno diventando ingombranti. Sei diventata un'esperta? Vabbè, sono esperta, è un parolone. Sei quasi un'operatrice, mi piace, del settore discografico. Mi piace sempre considerarmi una manovale in tutto quello che faccio. Bene, ecco, la nostra co-conduttrice manovalmente parlando, si può dire così. Concept? Lo diciamo concept? Il concept lo lasciamo al nostro saluto e questa è stata Suoni Paralleli. Ancora grazie a Giovanni grazie Gigantino della Fabbrica per essere stato con noi. Grazie. È stato davvero un piacere entrare in tutto quello che riguardava il tuo modo di vedere le cose e anche nelle produzioni della Fabbrica, che vi invitiamo ancora ad andare a seguire sui circuiti bolognesi e non solo, quindi anche nazionali. Ancora grazie Francesca Clementoni, chi vi parla è Antonino Barresi, questa è Suoni Paralleli, ci vediamo sabato prossimo su Radio Città Fujiko. Ciao!